La dedico a te. La luce di questa stanza. Che se probabilmente non ti sembrerà abbastanza. Che anche se siamo lontani, lontani, lontani. Non sentirci più. Pensavi almeno di meritar di più. Dimmi che in fondo va bene così. Questa luce danza, coi tuoi capelli danza, come un'ombra nel tempo in questa stanza, un'altra vita possibile, in questa lama di luce, che brucia e passa attraverso. È solo un gioco perverso, solo il mio gioco perverso. Perché se siamo lontani, lontani, lontani, siamo lontani per non sentirci più.